1, 2, 3. Adesso tra poco ci sarà Alessandro Milan che leggerà i giornali in un modo che nessun altro al mondo li sa leggere. 24 mattino. Ah, che simpatici burloni questi ascoltatori nostri, eh? Alessandro, ti sei fatto male? Il GR ha detto che è caduto il Milan. Sono fatto molto male negli ultimi anni, tranquillo, caro ascoltatore. Sono anni che sono acciaccato. Allora, cari amici, la 149esima giornata e anzi anche settimana decisiva. Oggi non riesco a parlare, che vi devo dire? Se volete me ne vado, torno a dormire. La 149esima settimana decisiva per l'abolizione delle province è cominciata ufficialmente. Eccoci qua allora a leggere i giornali. Mi ricordo che oggi avremo ospite chi? Beh, nel giorno in cui si parla di primarie avrò ospite una candidato sindaco a Roma, è Virginia Raggi, candidata sindaco del Movimento 5 Stelle alle 8.40, sarà ai nostri microfoni. Ebbene, dai, andiamo a leggere i giornali. Non c'è niente di più divertente che commentare i giornali. Mamma mia. Don Livio Fanzaga, come hai ragione, come sono d'accordo con te. Lunedì 7 marzo. Ci siamo con i titoli, il Sole 24 Ore apre sui consumi, ecco la mappa dell'Italia che paga a rate nei primi due mesi la crescita record dei prestiti finalizzati. Poi lo vedremo con Mauro Meazza, dove si paga più a rate, l'interessante classifica e mappa del Sole 24 Ore. I titoli, il racconto degli italiani liberati in Libia, o meglio che si sono liberati da soli, questo bisogna dire, almeno così pare. 7 mesi di fame e paura, così il Corriere della Sera è il titolo principale. Mentre c'è chi sceglie le primarie a Roma, vince Giachetti, pochi al voto, così il Messaggero. Repubblica, primarie PD, vince Giachetti a Roma, affluenza in calo. Si torna sulla Libia per la Stampa. In Libia 8 mesi d'inferno. E anche il Giorno, non invaderemo la Libia. Il premier Renzi smentisce l'ambasciatore americano e la Pinotti. Mai 5.000 militari in azione. Il Giornale invece, dietro i rapimenti in Libia, un terrorista passato in Italia. Un interessante articolo di Fausto Biloslavo che vedremo. Buona la prima, è sempre primarie. Per quel che riguarda l'Unità, mentre il Fatto Quotidiano, primarie PD, affluenza crollata a Roma, non votano neanche i cinesi. Si ricorda come invece a Milano ci furono anche polemiche per il voto di alcuni cinesi. Mentre Libero, il titolo di Libero è «Le città devono fare cassa, le multe salgono del 30%, si salvi chi può» e lo vedremo tra poco. Intanto, cari ascoltatori, questo articolo che ho trovato solo sul Corriere della Sera, Luigi Ferrarella, è un articolo che a me è un po' di inquietudine l'ha messa, Perché racconta Ferrarella, pagina 19 del Corriere, allarme sicurezza per l'anagrafe tributaria. Attenzione, perché il garante per la privacy ha scritto all'Agenzia delle Entrate, al suo direttore Rossello Orlandi, al ministro dell'Economia e dunque al ministro Padoan, denunciando questo rischio. Una delle più importanti e delicate banche dati pubbliche, cioè l'anagrafe tributaria, presenta 20 rilevanti criticità nelle misure di sicurezza e nella qualità dei dati utilizzati per la selezione dei contribuenti ai fini dell'accertamento sintetico. Insomma, una sfilza di vulnerabilità riscontrate dall'autorità garante che le ha segnalate in una lettera sia al direttore dell'Agenzia delle Entrate sia al ministro Padoan, invitando a intraprendere nell'immediato ogni sforzo utile a ridurre significativamente rischi di accessi abusivi. Uno di questi rischi riguarda il servizio Fisco Online, nel quale il contribuente può entrare con username, password, un PIN in cui riceve online la prima parte e poi riceve a domicilio la seconda parte. Ma secondo il garante, già con la prima parte del PIN si può permettere a chiunque entri in possesso di consultare tutti i dati personali sensibili di quel contribuente, a cominciare da quelli sulla salute. Poi ci sono le vulnerabilità legate all'assenza o inefficienza di sistemi in grado di segnalare accessi potenzialmente anomali, cioè gli alert. Insomma, il garante della privacy trova molti allarmi sulla sicurezza per l'anagrafe tributaria, e questa non è una buona notizia. A proposito, siccome lo vedremo tra poco, Renzi è andato da Barbara D'Urso, ha detto ancora che verranno pagati e rimborsati tutti quelli che sono stati truffati dalle banche, ma ci si sta chiedendo quando questo accadrà. Enrico Marro oggi lo scrive sul Corriere della Sera, pagina 17, poi c'è una pagina anche sul Giorno, una pagina sulla Stampa. 3 mesi dopo, niente rimborsi. Renzi lo aveva detto, racconta Enrico Marro sul Corriere della Sera, in breve, in poche settimane rimborseremo tutti. Ieri è stato il vice ministro dell'economia Zanetti, che è andato in TV in mezz'ora su Rai 3, è andato anche a Sky, ha sollevato il caso parlando di un presidente del Consiglio che su questo tema pare più un temporeggiatore che un rottamatore, e cioè i ritardi sui rimborsi di Banca Etruria. Zanetti dice la decisione ora è solo politica. E il Corriere si chiede, come Repubblica, come la Stampa, come il Giorno, ma che fine hanno fatto i provvedimenti per rimborsare i risparmiatori raggirati dalle 4 banche fallite, Etruria, Marche, Cari Ferrara, Cari Chieti? Chi è stato truffato avrà i soldi fino all'ultimo centesimo, ha garantito anche ieri il Premier da Barbara D'Urso. Ma il decreto della Presidenza del Consiglio e il decreto interministeriale tra economia e giustizia previsti dalla legge di stabilità dello scorso dicembre devono ancora essere emanati dal governo. C'è tempo fino al 31 marzo, anche se fin da gennaio Renzi aveva promesso che lo avrebbe fatto prestissimo, nel giro di qualche settimana. Ora c'è tempo fino alla fine di questo mese, ma i giornali si chiedono dove siano finiti questi provvedimenti, perché non si veda la luce, perché non vedono la luce questi provvedimenti, e che fine fanno dunque questi rimborsi che sono stati promessi. Intanto, cari ascoltatori, state sereni. Quando si tratta di chiedervi un po' di soldi, di mettervi le mani nel portafogli, caro Peter Bescapè, è inutile che lo nascondi nei cassetti, te li veniamo a prendere. Vuoi sapere come? Fumi? No, non fumi, ecco. L'Alpino non fuma, ma il Messaggero racconta che per le sigarette tra i 4,20 e i 4,40 euro, so che molti italiani già sono in, lo dico, fibrillazione, c'è l'aumento delle accise possibile e dunque l'aumento delle sigarette. Fumo più caro, accise verso l'aumento. Pagina 11 del Messaggero, il Tesoro è al lavoro su un decreto per aumentare il prelievo, rischiano soprattutto le sigarette cosiddette low cost, cioè quelle che costano al pacchetto, io non me ne intendo perché anch'io non fumo, tra i 4,20 e i 4,40 euro. Queste sigarette potrebbero subire un aumento. Il Ministero dell'Economia, racconta il Messaggero con Andrea Bassi a pagina 11, sta puntando lì. E se non bastasse, perché dice, io vi sento già di... tanto io non fumo! Lo pensate? Agiamo sulle multe e vi aumentiamo. Non è che vi aumentiamo le multe, per carità, state tranquilli. Le multe come cifre non aumentano, ma aumenta il numero delle multe. Cioè, ne ho presa una ieri, peraltro. Divieto di sosta, d'altronde se non ci sono i parcheggi a Milano cosa devi fare? Divieto di sosta. Ne ho presa una anche 4 giorni fa. Divieto di sosta, d'altronde se non ci sono i parcheggi a Milano cosa devo fare? Il mio stipendio va così. Comunque cresce la gogna, multe nel 2016, aumento del 30%. L'aumento del 30%, racconta Stefano Zurlo sul Giornale, racconta anche su Libero Paolo Emilio Russo, in realtà è una indagine dell'ADN Cronos sui bilanci di previsione 2016 dei principali comuni, racconta Libero che il caso più clamoroso, rivela l'ADN Cronos, è quello di Roma, cari cittadini di Roma. Quello di Roma, amministrazione che andrà al voto a giugno. Gli incassi previsti per l'anno in corso sotto la voce multe salgono da quota 250 milioni a quota 325 milioni. Soprattutto sono i 148 milioni di arretrati a pesare in tutto ciò, perché si riesce a recuperare evidentemente gli arretrati. Comunque i comuni fanno cassa così, aumenta del 30% in media il numero delle multe elevate nei comuni, certo a persone che come me mettono in divieto di sosta. D'altronde, se non c'è parcheggio, cosa devo fare? Me la mangio la macchina. Eccoci qua, siamo all'articolo. Non è questo delle multe l'articolo da mani sul volante, ma l'articolo da mani sul volante, cioè l'articolo che mi fa più sfavore della giornata. E se siete a fare colazione, appoggiate tutto ciò che avete di contundente e anche caffè bollenti. L'Affittopoli alla reggia di Caserta. La reggia dove i sindacati si lamentano col direttore perché lavora troppo. Ville nel parco a 5 euro al mese. Il Giornale racconta con Antonio Borrelli. Questa lettera dei sindacati, devo dire, ha avuto un pregio. Aprire e accendere i riflettori su questa vicenda della reggia di Caserta, dove pensate un po', se se ne stavano zitti, nessuno diceva niente. Adesso hanno fatto i gradassi dicendo il direttore lavora molto e adesso si beccano tutte le inchieste sulla reggia di Caserta, dove, racconta il Giornale, ci sono persone che vivono in appartamenti della reggia di Caserta, appartamenti borbonici, pagando 5 euro al mese. Sono ex dipendenti, pare, della reggia di Caserta, anzi sono schivi, sfuggenti, misteriosi. Ma chi cacchio vive alla reggia di Caserta a 5 euro al mese d'affitto? Agghiacciante quello che dicono, è una vergogna. Alessandro Milan, Fujisusa, Konnichiwa, Dongija, dialetto sudcoreano. Ma è un genio questo. Devo arrabbiarmi. Lo dico ufficialmente a tutti coloro che mi scrivono al 349-238-6666. Dice: no, genio, se non c'è parcheggio, lascia la macchina a casa e vieni con i mezzi pubblici. Ah! Ho preso le multe sotto casa e non ho i soldi per il garage. Se me li compri tu, genio, me lo compri tu, io volentieri. B! Oh, usa i mezzi pubblici invece di andare a lavorare. Io mi alzo alle 5. Vivo vicino alla metropolitana e prenderei molto volentieri i mezzi pubblici, ma vivo in una città medievale, arretrata, ottocentesca, e la metropolitana non va a quell'ora, va bene? La città del futuro, dell'Expo, del 2000, non va, non va. I mezzi sostitutivi, provate a prenderli. Avete presente la scena di Fantozzi con la gente sull'autobus stesa sui mezzi sostitutivi? Non fatemi incazzare, che è lunedì. Bene. Genio, genio, usa la bici. Ragazzi, ne avete sempre una. Usa la bici, mi dicono. Sì, se arrivo vivo, perché non mi stira un tram. Uso la bici. Il taxi, questo mi scrive il taxi. Ma pagamelo tu il taxi. Ma porca miseria, ragazzi, oggi mi volete fare incazzare. Ve lo dico, eh. E sono solo le 7:37 del mattino. Allora, parliamo di cose più serie. Allora, la Libia, le persone che si sono liberate, perché questo è quello che è successo, e cioè i due tecnici Filippo Calcagno e Gino Pollicardo, che sono riusciti a liberarsi, raccontano i 7 mesi picchiati e minacciati, chiusi in cella al buio. Giovanni Bianconi, pagina 2-3 del Corriere della Sera, racconta ciò che loro hanno raccontato al pubblico ministero della Procura di Roma, Sergio Colaiocco, e ai carabinieri del ROS. Ci han picchiato con calci e pugni, a volte col manico dei fucili, ci davano da mangiare una volta al giorno e neanche tutti i giorni. Portavano quel che volevano loro, mai carne. Ci dicevano prima di entrare sempre di metterci il cappuccio, non li abbiamo mai visti in faccia. La liberazione dovrebbe essere avvenuta così, quando in coincidenza dell'uccisione degli altri due ostaggi italiani non si presenta più nessuno, evidentemente Pollicardo e Calcagno capiscono che sono rimasti uccisi anche tutti i loro carcerieri e dopo un giorno in casa sfondano la porta, escono sulla strada, fermano la prima macchina e chiedono di essere consegnati alla polizia. così dovrebbe essere andata. Intanto parla la vedova di Salvatore Failla, Rosalba Castro, nella sua abitazione a Carlentini in provincia di Siracusa. Il suo sfogo, soprattutto raccolto da Repubblica, dice: non dico che non mi sento italiana, ma questo Stato ha fallito. Gli uomini delle istituzioni finora non hanno avuto il coraggio di chiamarmi. In realtà Repubblica dice che solo ieri è arrivata la telefonata del ministro degli esteri Gentiloni. Forse perché non sanno cosa dirmi, forse perché non sono riusciti a liberare Salvo, forse perché non riescono neppure a rispondere alla richiesta di evitare che gli facciano l'inutile autopsia in Libia. E sì, perché questa vedova dice: ora anche l'autopsia in Libia, così me lo uccidono due volte. E poi aggiunge: non voglio politici al funerale di mio marito. Tra l'altro ieri Renzi, da Barbara D'Urso, ha fatto anche una dichiarazione un po' polemica, perché ha detto: bisogna capire anche la genesi di questo rapimento, bisogna capire perché fossero lì nonostante gli inviti a non andare da parte del governo italiano. Tanto che Libero fa una polemica di questo tipo. Renzi dice: chi li ha mandati in Libia? Insomma, un Renzi che critica proprio il fatto che fossero lì, e forse manca un po' di tatto, almeno in questa occasione, visto che sono morte due persone. Mentre Fausto Biloslavo, è il titolo di prima pagina del Giornale, mette questo articolo: in Italia la mente dei rapimenti in Libia. Cioè si racconta del ruolo possibile nei rapimenti dei quattro italiani, due dei quali poi morti, di Nureddin Shushan, un tunisino che potrebbe essere coinvolto nel rapimento dei quattro italiani e che ha due passaporti tunisini regolarmente rilasciati a Roma e Genova, se sono veri, oppure comprati, se risultano contraffatti. Sta di fatto che questo ha due passaporti italiani concessi dal consolato tunisino con il documento emesso dal consolato di Roma, passaporti che vengono anche riprodotti in fotografia sul Giornale a pagina 3 e che, racconta Biloslavo, dimostrerebbero come in Italia la mente dei rapimenti in Libia. Intanto Renzi, andando da Barbara D'Urso, dice proprio sulla Libia: non mando 5.000 uomini, ma che è un videogioco, risponde in qualche modo così all'invito dell'ambasciatore americano in Italia, che aveva detto: ci aspettiamo 5.000 uomini, 5.000 militari italiani in Libia. In realtà Renzi dice: no, rallenta. Vabbè, oh, che dobbiamo fare? Qua continuano con gli inviti a farmi arrabbiare. Puoi fare jogging? Sì, io jogging, esco alle 4:15, no? Poi tra un anno mi licenzio e vado a vincere la maratona di New York, così magari prendo più soddisfazioni. Oppure lo smart working, il lavoro da casa. Sì, Peter, tutti a casa, porta lo studio di Radio 24 a casa, perché io mi devo svegliare anche con calma, non più alle 5 ma alle 6, così lo studio di Radio 24. Direttore Roberto Napoletano, per favore, vorrei lo studio a casa da domani, che così io non mi sposto da casa e sono meno nervoso. Già ero nervoso ieri, oggi mi fate innervosire ancora di più. Mauro Meazza, non so perché ieri ero nervoso. Buongiorno comunque anche a te. Versalico sul fondo, mette il cross teso, il pallone passa, Sansone fa 2-0, l'assist. E i filistei, sì. Buongiorno, buongiorno Alessandro. Se vuoi, guarda, ti porto io. Vengo a prenderti, ti porto io con la macchina, così. Ti ringrazio. Allora vorrei che tu prendessi l'agenda per segnarti. Eccomi qua. Per segnarti che domani con il Sole 24 Ore ti diamo il corso di educazione finanziaria, i tuoi soldi, poi da domani in edicola anche norme e tributi mese, e ricordati che giovedì parla Draghi, e tra l'altro sai che Draghi parla in inglese, noi giovedì diamo la prima uscita della nostra Hook Magazine per imparare l'inglese. Cioè già settimana piena, non c'è più un buco. Comincia a segnare. Per allietarti la mattinata, che mi sembra tu sia veramente nervoso, ho preparato un agevole sunto in versi di cui do lettura. Credevano d'aver spiccato il volo i redivivi eroi di Milanello, ma ecco due piastrelle di Sassuolo fermare il sogno loro sul più bello. Ma sei impazzito. Così anche il dipendente transitato dal pubblico nell'alveo dei privati ai contributi non aveva pensato, ma glielo dice ben Gianni Trovati, che la ricongiunzione sarà esigente. Chissà se la potrà pagare con rate che pure stan piacendo a molta gente. Così come ci piace aver scontate le spese per i mobili, che il fisco ci agevola con detrazioni toste. Però se te le spiego ti intristisco. E allora leggi poi Cristian dell'Oste. Di questo e molto altro scrive Il Sole. Oggi in edicola con argomenti a raffico. Leggi norme e tributi. Io come suole, anche oggi ti saluto col mio traffico. Ah ah, Alessandro Milan, lui che sfoglia il giornale, non ci fare incazzare, ma parlare con te. Sei straordinario, caro ascoltatore, ma oggi l'inzato sono io. Vabbè, devo dire, Meazza è straordinario, perché voi dovete dire, lui non mi preannuncia niente, cioè, ma straordinario, sommo poeta, c'è chi scrive, giornalismo 3.0, super, che classe, premio Nobel, ma il migliore è questo, è impazzito. Mauro Meazza è impazzito. Numero uno, ringrazio quelli che mi suggeriscono lo scooter, ce l'ho ma fa freddo, ma tra poco lo tiro fuori, e grazie a chi mi dice comprati una casa col garage, mi sembra la soluzione. C'è chi mi suggerisce il car sharing con Peter Bescapè, non so Peter, se vuoi venire a prendermi il monopattino, grazie, beh, col monopattino elettrico a due ruote io vado avanti sempre più. Vabbè, datemi anche voi la vostra soluzione per comprare un garage senza averne i soldi e per andare coi mezzi senza mezzi. Fate vobis. Allora, le primarie, come detto a Roma, ha vinto Giachetti nettamente, 64% circa davanti al 27% di Morassut, insomma una vittoria abbastanza secca, così come a Napoli, il centro-sinistra ovviamente, ha vinto la Valente, onorevole Valente, ha perso Bassolino, questa è la notizia, è la prima volta che Bassolino, candidandosi a qualcosa, ha perso, quindi non ha vinto neanche le primarie e dunque si ferma così la corsa di Bassolino. C'è Orfini, che è il presidente del Partito Democratico, che dice: è una bella giornata, siamo un paese in cui la destra sceglie i candidati in tre e neppure si mettono d'accordo, i 5 Stelle li scelgono con qualche migliaio di click spiati da Casaleggio, così dice Orfini, noi del PD con decine di migliaia di persone che alla luce del sole esprimono liberamente il loro voto. Risponde così anche alle critiche di chi dice: beh, c'è stato un crollo nei voti, è vero, ma sempre più degli altri. Questo dunque han detto le primarie. Vi ricordo che tra l'altro avremo ospite la candidata sindaca del Movimento 5 Stelle a Roma, Virginia Raggi, alle 8:40, dunque tra un'ora esatta. A proposito di primarie, Renzi si dice soddisfatto, così Maria Teresa Meli nel consueto retroscena sul Corriere della Sera, pagina 11. Renzi dice: le primarie sono andate molto bene. Tra l'altro Renzi che bypassa il veleno sputato da Massimo D'Alema. Pensate che Massimo D'Alema è andato a votare alle primarie e ha fatto un commento salace del tipo: ma vedo più commentatori che elettori in fila, cioè questo a testimoniare che non hanno votato in tantissimi. Ma soprattutto racconta Maria Teresa Meli che Massimo D'Alema si è lasciato andare a un giudizio mica male in una recente cena, così Maria Teresa Meli lo butta lì nel retroscena, stai a vedere se è vero oppure no. Comunque D'Alema a una recente cena ha detto, due punti aperte virgolette, Renzi è un uomo del Mossad, bisogna sconfiggerlo. Mossad, servizi segreti israeliani, complotti. D'Alema, Renzi è un uomo del Mossad. Vabbè, parliamo di altre cose. Oggi è un giorno importante, oggi, ma questo è un periodo importante per la questione dei profughi. Tra l'altro, come avete sentito, Valentina Furlanetto insieme a Valerio De Rosa ci racconteranno questa settimana, soprattutto dalla Grecia. Ebbene, vi segnalo, poi la sentiremo anche alle 8.25, Valentina Furlanetto, ma vi segnalo due articoli dalla rassegna stampa. Frontiere chiuse sul tavolo del vertice a Bruxelles, oggi c'è la sospensione di Schengen, ufficiale, e anche però già il calendario per riattivarlo, c'è una sospensione temporanea. Racconta tutto Federico Fubini. Si chiama Back to Schengen, ritorno a Schengen, è un documento col quale Jean-Claude Juncker si presenterà oggi all'ennesimo Consiglio europeo sull'emergenza rifugiati. Già dal titolo, la proposta del Presidente della Commissione europea presuppone che l'accordo di libera circolazione delle persone sia nei fatti già saltato. Poco importa che formalmente lo abbiano sospeso solo 6 dei 26 paesi aderenti. La Commissione guarda oltre, l'obiettivo è pilotare i leader europei verso un percorso a tappe che potrebbe portare a chiudere e poi riattivare la libertà di circolazione in Europa già da dicembre. Quindi una chiusura temporanea e poi da dicembre si riapre. Questa è l'idea di Jean-Claude Juncker. Tra l'altro Ilvo Diamanti, che mette i suoi sondaggi su lunedì di Repubblica, racconta che l'Italia... Gli italiani sentiti per il 56% dicono no a Schengen, quindi no alla libera circolazione. Dunque gli italiani sono più o meno divisi a metà in questo sondaggio. Comunque un po' più della metà dicono bisognerebbe rimettere i confini, di fatto. Schengen, cioè la libera circolazione di persone oltre che di merci, è sbagliata. Il 56% degli italiani dice così. E poi che dobbiamo raccontare? Qualche cosa di cronaca c'è? Beh, questa di cronaca mi ha colpito in maniera negativa. Lo racconta il Secolo XIX in prima pagina. Don Luciano Massaferro, ex parroco di Alassio, era stato condannato a 7 anni e 8 mesi per abuso su una minorenne. È uscito dal carcere, ha scontato quasi tutta la sua pena, gli è stato abbonato un anno e mezzo, perché sapete che in carcere un anno, in realtà, se ti comporti bene, dura meno di un anno. Comunque è uscito un anno e mezzo prima dei 7 anni e 8 mesi di carcere, e solo che adesso lo attende il processo canonico, perché è ancora un prete, Don Luciano Massaferro. Il processo canonico va verso l'assoluzione, scrive il Secolo XIX, il vescovo, dice, lui va assolto, ma è stato condannato a 7 anni, il processo canonico va assolto, risultato, resterà prete. Così Don Lu ha scontato la pena, ora sono un uomo liberato, lo attende il processo canonico, ma il secolo anticipa, si va verso la soluzione, in quel caso tornerà a fare il prete. Ma come può essere prete uno che ha abusato un minorenne, una minorenne? Bah, comunque... Lasciamo questa domanda, mentre attenzione, dall'Inghilterra arriva una rivoluzione che potrebbe coinvolgere tutti coloro che vanno a scuola anche in Italia. Basta punti esclamativi! Col punto esclamativo è la battaglia che viene dalla Gran Bretagna. La nuova linea guida per gli insegnanti, va evitato lo stile dei social. E quindi basta! Col punto esclamativo, ovviamente. È ora di finirla con l'abuso del punto esclamativo. Questo in sostanza il messaggio diramato dal Ministero dell'Istruzione in Gran Bretagna, a tutte le scuole elementari, perché i bimbi del XXI secolo cresciuti con messaggini WhatsApp userebbero in eccesso questo delicato strumento grammaticale. Dunque il Giorno dedica una pagina con Deborah Bonetti a basta i punti esclamativi. Ma dai, eccoci qua, non ci sono altre soluzioni. Cambia casa. Questo mi chiede, dice, cambia casa se non hai i mezzi per arrivare al lavoro. Ce li ho i mezzi, è che non ci sono i mezzi. Io mi sveglio, vado alla metropolitana, è chiusa in questa città ottocentesca. Va bene, ma Matteo Persivale con il Corriere della Sera vince la carta costa, l'articolo più inutile scovato sui giornali, per un'intera mezza pagina con la resa e il dolore di Madonna. Perché Madonna è addolorata? Perché il figlio Rocco di 15 anni ha deciso di vivere con il papà. Ma chi se ne frega!